Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Il tema di oggi è come intervenire sui condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato. Ce ne sono moltissimi in Italia e gran parte di questi sono inefficienti. Le ragioni sono quasi sempre due. Da un lato, molti di questi vecchi condomini sono stati realizzati senza tenere oggettivamente in alcun conto il risparmio energetico, soprattutto in anni in cui l'energia costava poco. L'altra ragione invece è di tipo più psicologico che fisico, ovvero l'impianto centralizzato disincentiva fortemente i comportamenti virtuosi volti al risparmio. Cioè i condomini, non vedendo una relazione tra i propri investimenti e comportamenti e la bolletta, quello che pagano, insomma, tendono a trascurare del tutto il risparmio energetico. Come rompiamo questo circolo vizioso? Questa è la domanda di oggi. Ci aiuta a trovare una risposta Pierangelo Isolani, esperto di risparmio energetico di Adiconsum, che è in linea con noi. Buonasera Isolani. Buonasera a tutti. Dunque Isolani, abbiamo capito che il problema di fondo è ricondurre i consumi a chi effettivamente consuma. Come si fa? Ovviamente senza rifare tutto un impianto di riscaldamento di un condominio, che è una spesa, insomma, eccessiva. Sì, le tecnologie attuali, ma per la verità da diversi anni sono sul mercato, sono abbastanza semplici. Basta installare su ciascun radiatore della casa un piccolo apparecchietto che registra la quantità di calore emessa da quel radiatore. Dopodiché una ditta incaricata o viene direttamente a leggerlo in casa, oppure nei più moderni sistemi c'è una centralina radio, raccoglie i dati, e quindi sulla base di questi dati raccolti viene stabilito quanto calore ha consumato il mio appartamento rispetto all'altro e rispetto a tutti gli altri. Questi contabilizzatori sono proprio degli oggetti che si attaccano al radiatore, e si appoggiano lì, proprio avvitati sopra il radiatore. Sono come immagini la metà di un pacchetto di sigarette. Ah, perfetto. Ecco, l'altro punto, indiscutibilmente, è quello poi di dare la possibilità agli utenti di fare almeno un minimo di regolazione fine del riscaldamento nei locali, che incentiva appunto l'attenzione, no, verso il risparmio. Ovviamente la seconda operazione, che è strettamente legata alla prima, altrimenti non servirebbe a niente, è quella di installare su ciascun radiatore del proprio appartamento, anzi di tutto il condominio, su ciascun radiatore di tutto il condominio, una valvola termostatica, cioè che viene impostata sulla base della temperatura desiderata in quel locale. E quindi quando la valvola con un sensore sente che la temperatura viene raggiunta, chiude l'immissione dell'acqua calda nel radiatore e la fa andare verso le altre parti dell'appartamento o negli altri appartamenti. Questo significa che alla fine il consumo complessivo diminuisce, perché il comportamento virtuoso in questo caso dei condomini si ripercuote sulla bolletta di riscaldamento che pagano. Abbiamo introdotto in modo molto semplice una possibilità di regolare il riscaldamento all'interno dell'ambiente e di contabilizzare il risparmio. Di conseguenza si innesca questo... Senza fare tutti gli investimenti e rompere l'appartamento per mettere le caldaiette individuali, che tra l'altro sono molto più costose perché devono avere ogni anno una manutenzione e possono anche essere pericolose, perché insomma una caldaietta è sempre una caldaietta. Ecco, questo ci porta naturalmente a un altro discorso. Un'altra caratteristica di queste caldaie individuali, che sono andate molto di moda per un certo periodo, è che poi sono tutte sovradimensionate, ovviamente. Assolutamente, per il singolo... se noi tutti i condomini che sono stati trasformati o costruiti con caldaie individuali per ogni appartamento, alla fine la somma delle potenze installate delle diverse caldaiette sono più del doppio la potenza installata nella caldaia centralizzata, quindi spese maggiori complessivamente, e senza contare che le 100-150 euro che bisogna pagare per fare la manutenzione della caldaietta. Quella annuale. Senta, al di là dello specifico intervento e quindi del fatto che si tratti di razionalizzare il riscaldamento condominiale oppure di altro, si pone un problema quasi sempre, cioè quello di valutare quali sono gli interventi che lo stabile merita. Qui cosa suggerite come Adiconsum? Il consiglio che Adiconsum dà a tutte le famiglie è che prima di intervenire per uno qualsiasi degli interventi che sono stati indicati, la termoregolazione, la contabilizzazione, la nuova caldaia, eccetera, conviene sempre chiamare una struttura, un organismo indipendente che gli dica esattamente che cosa quel condominio ha bisogno, e non chiamare la ditta che deve eseguire i lavori, perché evidentemente può c'è avere un conflitto di interesse a proporre delle cose che non sono proprio quelle che servono. Ecco, Adiconsum fa però questo servizio. Adiconsum fa questo servizio chiamando il numero verde 800 985 280, e noi abbiamo la possibilità di mettere in contatto il consumatore, l'amministratore di condominio, chiunque insomma, con degli ingegneri che daranno dei primi consigli in modo gratuito, e poi se le cose vanno avanti potranno aiutarli a programmare i lavori necessari, non a realizzarli. Grazie Isolani, a corollario di quanto abbiamo spiegato fino ad ora aggiungiamo, solo per non lasciare un non detto, che con questo sistema i condomini ricevono bollette separate, non più basate sui millesimi di stabile posseduti, ma tranne insomma una piccola quota legata per esempio alla manutenzione, basati sul consumo effettivo. Ci sembra anche il caso di sottolineare come il buon amministratore di condominio debba assolutamente, lo vogliamo dire con forza, proporre questo tipo di interventi. Mr. Kilowatt si chiude qui, domani sera ci occuperemo di serre bioclimatiche. Buona serata!